To hip hop culture. Stop the negativity and control our creativity. Night and day, night and day. Nero come asfalto, l'amore non esiste più, l'odio ne ha preso il posto. Suicidi, come puoi dargli torto? È logico cercare un modo per scappare via da questo mondo. Unica alternativa è essere cieco, muto, sordo. Sedersi sopra il bordo di un grattacielo, sperare che tutto ciò che è intorno non sia vero. Me la prendo con il cielo, aiuto non ne vedo. Se dall'alto ci ha guardato allora è cieco, altrimenti non mi spiego. Un'alternativa la rinnego ma mi piego. L'unico nemico lo individui tra gli individui, estrai tre visi. Leggilo, nessuna pietà, vivendo a metà. Tra sacro e profano la mia identità sto perdendo. È sacro solo l'elemento per cui sto vivendo. Ho come esempio l'uomo che vive a stento. Night and day, night and day. Farsi genere, ho bisogno di riflettere. Vedo la mia vita accantonata dal mio credere. Non ha bisogno della fede, il mio erede non ha bisogno della quiete. Ho scelto il rap, non la fobia. Il mio walkman, un beat è la mia fantasia. Night and day sulla scia. Sono padrone della singola energia. Night and day, night and day. Senso di colpa, non ho più rispetto per chi non ci prova la seconda volta. Odio chi sente ad occhi chiusi ma non ascolta. Odio chi rifiuta una risposta opposta a ciò che si crede, a ciò che si vede. Vedo mamme disperate ai bordi di un marciapiede. La soluzione non è fare finta che non succede. È inutile sperare nella fede, nella fede. Ora straccio ogni sostanza che mi ricorda il mio inno alla speranza. La mia pazienza diventa intolleranza e appoggio chi rifiuta l'ignoranza. E si combatte fino allo stremo, chi con le armi, chi con una demo e tremo alla visione dell'ennesimo viaggio. Ciò che vedremo sarà solo un assaggio.